venendo Gianni di Abonorva a portarti l'apparecchio, quello per i denti. Sparito, eh. Avanti, replica già. Pito. Ci deve essere stancato, Gennaro. Però la trama non ti ascolta, eh. Se forse si era spostato magari, ma che cos'era in macchina? In casa, sono fissa. Ma è sparito, ha chiuso. È andata, ma chiuso sì. Beh, adesso sì, prima è rimbalzo, no, ci ascoltiamo anche prima questi passaggi che hai chiamato anche, però è rimbalzino, adesso hai, sì, ha aumentato parecchio. Con il paramobile, Vittorio, no, non sai cos'è, sono negato per certe zone di Sassari, per esempio Arghino, Sandro Conrad, non lo sentivo, io mi sentivo, perché c'ho anche la manco qua, Vittorio, devo alzare. Sandro Conrad. Quest'anno compio 40 anni di frequenza, Vito. Anche tu sei vecchietto, un po' meno di me, comunque anche tu sei, hai un bel, anche se non sono stato molto frequente, io alla presa di peso, ho cominciato nel 1968, pensa. So che sei uno dei vecchietti anche tu. No, io nel 72 ho iniziato, ero un ragazzino. Avevo sui 13 anni e quindi ho conosciuto quasi tutti i vecchi cipini, siamo da Cassiopea, Carlos Primero, Coso, Flaimer, ti ricordi Vittorio, di Panzer, ti ricordi? Mi ricordo veramente, io volavo normalmente con Vela 1, Vela 2, questi personaggi che non erano un grande frequentatore della frequenza, ero appassionato, la verità, però per motivi di lavoro molte volte rimanevo un mese che non usavo, due mesi, così, quindi era sbarzo, capisci? Io già lo usavo quando ero ragazzo, ero piantonato dall'uscita di scuola sempre sull'apparato, Vittorio, ti dico che sono stati dei bei periodi, poi lì, piano piano, però ce l'ho sempre avuto in casa, anche quando mi sono sposato, piazzato, anche se non modulavo spesso, però l'apparecchio c'era. Vedi la verità, faccio vedere amore con l'uccia di prova, che tu lì, quando parlavi a barattino, mi sei attaccato lì ieri, perché sentivi a me, c'avevo la voce sexy. Non è reonevolo, già, pensavo quanto è che era una roba del genere, pensavo, invece poi quando l'ho vista, allora quando l'ho conosciuta era arruolato nei carabinieri, sono venuto a trovare il 91 in licenza, detto si è sposato con questo occhio azzurri, chissà, ho detto che donna bella che donna bella che, vado, oggi ormai Antonella fa la donoraio con la Pira Lucia. Oh, Giulia, bei tempi qui, bei tempi. Luca, ci sei, chi pensa? Già, io sono qua, dai. Non so se mi ascolta. Vabbè, Gianni fa se mi ascolti, l'altro, quello che c'è a Monorva. Lui, siamo tre soldi, a me. Io sono in barra mobile, sono a Ossi, sono a Ossi e devo andare a farmi delle compere, no, io ti ascolto a fondo scala. Allora, ci arrivo, là, avanti, becco. Buonasera a tutti, stazione B2 da questa parte. B2, buonasera anche a te, se mi ascolti. Luca, la questa, compagnia di Pomponio, c'è anche a Vittorio, Gianni Capridue lì, mobile a Rossi. Avanti, ripeti tu, Pomponio. Già, io ti... Scusa, già, che lui ci sei? Ah, buono, niente. No, non ci sta andando la sera. Ciao Gianni, ben rientrato. Evidentemente ti sei spostato poco fa. Ciao B2, ben rientrato anche a te, ben sentito. Avanti Vittorio. E lo saluto anche io, ragazzi, anche a Gianni, Io mi sento solo un istante, mi hanno chiamato. Intanto stavo aspettando per avere questo passaggio per potervi scordare. Chiedo scusa, ma mi devo sentare, poi riprenderò dopo, dai. Vi saluto per il momento. Vittorio, benvenuto anche a te. E buona, diciamo, per X, dai. Sapere se è entrato per caso Barracuda. No, non è entrato ancora, già. Negativo già, se poi memorizzare il canale di questa cosa, eravamo assieme, stamane è venuto a trovarmi, Antonello. Capagato. Va bene, andai. Io capri due, togli una moto che andiamo a farci un giro. Sali due, mi, già che giù in casa con la festa con... Capri due, Duccia. Nando, quello lì, sei una battuta. Giorni, mi, marmita originale, sai le cose, già, mi sta spendendo, no, non ci siedo più in moto, già, non voglio guardare. Hai capito, ormai la moto, troppo ci ho camminato già, è finita per me la moto. Mi sono bello a vederla in garage, po'. Perché allora ti sono differente? Oh, io non ti capisco. No, a me mi piace proprio guidare la moto. Mi piace farmi giretti. Però è bello andare in tanti, capito? Andare in tanti, senza correre, è un po' di passeggiata. No, oggi è bello così, già no. Adesso qualche giro in due con la Vespa, perché ho fatto il Ducati 98 che volevo provare. Sono già un parecchio tempo che non esco in moto. Ci ho camminato e ne ho fatto scorazzate, però adesso è tempo di andare a passo di lumaca già, perché ormai hai capito, il traffico non permette più, prima già correvo già e anche troppo, adesso bisogna stare attenti anche se attraversa uno, la cosa dell'altra, lo metti sotto come è capitato, hai capito, da ruina, no, a fare una passeggiata nelle giornate belle, molto piacevole la moto. Ok, saluto B2, saluto anche e rilancio il tutto a Pompoli, avanti a te. Mi lasci le moto, le scoperto dove c'è oggi, mi sai come ti rinfresca, c'è più aria buona, prendi aria pulita, poi c'è un male gettato a voi, aria marina già nel piedi, avanti B2. Ragazzi, sono passato le gallerie di oggi, un attimino che si sporca adesso, Riprendo io. Lo mantiene giovane questo freddo, se c'è morto, lo mantiene giovane, lui che si ritiene anziano, capi due, si fa vedere più vecchio quello che almeno quest'aria lo fa rinfrescare. Ma già tu la moto ce l'hai, ma io da ragazzino ne ho mica più girato forse con la moto, mi piace, la cosa più bella che ci sia al mondo già, solo che diciamo devi trovare una greppa, uscire, è capitata per quei così raduni d'epoca, però ormai già non la può più gana, davvero non ne ho più voglia di stare, ce li ho le moto, un giorno che in Napoli non li avrò viste, ce li ho, cioè il Suzuki 380, il Ducati 350, Ducati 98, c'ho la Aprilia SR, il Fifit della Malaguzzi, la Vespa, come stavo dicendo, la Honda 125 NSR, ce ne sono già, però a decidere niente, cioè magari qualche giorno che capita facciamo anche un giro, non è però stare abituale di nuovo come era una volta al negativo. Adesso posizionare le bande moto. Io un altro blindaggiami, un altro. Allora, pronto sei, stasera facciamo un giro, dai. Ma dove ti stai sbagliando? Io molto c'ero da ragazzino, ho avuto il Scio, ho avuto altre moto, ho avuto il Kinko, il 50, ho avuto la Vespa, ne ho avuto di moto. Tutto il Kinko già, ma per lì non c'è da comprare. Il Kinko, sì, il Kinko, non lo conosci il Kinko? Il Kinko, ho capito il Kinko. Molto vera il salotto, per carità, altro solo problemi, vabbè, comunque, meglio non pensarci, andava meglio l'SR, ho cambiato l'SR, che era nuovo, l'ho pensato per pigliare quella, andava meglio il 50 del 125, avevo messo i rapporti e l'SR camminava via. Il cavalacchino non l'ho mai visto, questo nuovo, allucinante, tutto digitale, Galaxy Uranus, Uranus, non ce l'hai Uranus, non c'è Uranus, un Inter, che non accedo qua, ho trovato che era 26 MHz. Questo qua, da 25 a 32, è come il coso, il presidente Lincoln, capito? sembra che sia un po' superiore, adesso vediamo poi. Adesso vediamo. Buonasera a tutti, adesso rientrato. Adesso mi interessa quel mostro. La gente che ho fatto luogo prima. Sono qua, sono qua. Se tanto tu preparati, io lascio per il motorino un attimo, devo scendere la Sisa e poi facciamo le prove. Adesso provo il baracchino prima, perché c'è la placca del canale più 3, visto che c'è il coso, ha fatto il, come si chiama, il raffattore. Mi ascolti? Sì. Un attimo, ho detto che mi ascolti e ti ascoltiamo. Sì, claro, ha fatto la, perché c'ha la, lo spinocchio a sinistra, se non sbaglio. Vabbè, ma niente, se lo vuoi fare, l'ho provato l'apparecchio, claro. Ho fatto scaldare un po', però aveva dei problemi tipo, sai, il potenziometro. C'era un rumore. Però no, mi ha scaldato, non ho più fatto. C'è anche il logger VIP, controlla qua. Mi è già attaccato, mi. Sera che sono rientrato da campagna è salito il papo disperato, che era non solo per caporalato, ne è diventato alle 10 di notte, ed era Pugliffiga, da un amico nostro che suona, e poi non sa cosa fa già, mette la segreteria e gli altri girano la testa poi a una certa ora. E ma un ragazzo già della sua età e dovrebbe solo avvisare che sta uscendo, ma non è che ha già la sua età per fare queste cose, là. Lasciatelo un po' libero, lasciatelo volare. E quello sì già, però ho detto, oh, avverti, mi sono in tale posto, perché proprio è venuto a casa, io ero in campagna da mattina, ho detto sono rientrato, ho detto un po' cante, ho detto non sono bene, e hanno telefonato, allora tu glielo sai dove, però andava a chiamare, c'è la segreteria, sei uscito, non sono perché da poco fa non mi è andato, però già, capito, non è che posso stare sempre imbottendo i serbatoi, io no. Ehi vabbè, piace di guadagna anche su di lui, si fa le serate, quindi qualche cosa gliela guadagna anche lui. Di quello sì già, però ho detto perché bruci benzina così a vampere, gasolio, hai capito? E sono detto, dobbiamo uscire a Pasquetta, ce ne andiamo in giro, ho ripulito il furgone, non toccarlo, ho detto però no, perché poi consuma anche quello, anche se è nuovo già consuma. E dove ve ne andate a Pasquetta? Fordongianus me ne vado. Fordongianus? No, Fordongianus, proprio dove ci sono le terme già, c'è un amico fisarmonicista che lavora lì, come si chiama, proprio dove sono alle terme. Sono i tavoli, mi siedo, mi porto a papo e poi c'è un torrente, mi porto anche le cane da pesca, visto che ho la licenza, così, giusto per uscirmene già. Ero stato più contento se mi avrei finito gli altri sette alberi in campagna, ma non posso stare sempre attaccato lì. E quindi per non andarci anche lì in campagna, perché mi ha detto sempre in campagna, ha detto andiamo a Pasquetta, dove vuoi andare qui? E ce ne andiamo lì già. Ok, così giusto per passare una giornata diversa. Pagato. E magari lì, questa tipa che le piace riesce a rimorchiarsela, ecco, e ti porta la fidanzata. Ma chi l'ha, però e chi si cade già, non è venuto, ha detto, a me Conrad, mai ci è andato, poi ho aperto per il... Scusate la frase, ho detto una volta, mi ho preso un caffè, mi sono seduto, mi ho preso un caffè, se quello che stai dicendo, prima delle scale mobili, ho incontrato gente, diciamo, ma due minuti già, allora io quando passo lì, mio, perché sto andando a... di abbigliamento, perché devo salire al piano di sopra, non è che mi fermo né a mangiare patatine né a fare, hai capito, quando vado lì sono di fretta, mi volevo trascinare, vai tu, ho detto a me lasciami la testa in pace. Allora, riprendi Luca, poi fai girare. C'è, chi c'è in rotta? C'è Claudio, avanti Claudio. Avanti, chi è rimasto, se dici? Anche Pomponio c'era, Antonella, che sei? Gianni? Ciao. Sono tutti la TV, c'è rimasto il KP2 e basta, che ci stava raccontando della storia del figlio, che gli piace questa ragazza che lavora a cosa? Come si chiama? Ma McDonald's. Ascolta, com'è questa radio? Troppo alta? Sono, mi sentite? Avanti. 0,72, boh, non riesco a mettere a 75, eh. In chi è qua? Ora. Ma Capri2, guarda a vedere. Aspetta, stavo fischiando. Guarda a vedere però come si chiama quella ragazza che lavora al McDonald's. Ma perché sono i Cinegra? No. Portarmi a me con la testa. Sì, tu vivi, vero? A te. Comunque anche te due, mamma e figliolo. No, con quella scusa lì ogni sera poi le porta la macchina ed è sempre a riserva fisica e trova gli scemi, no? Io e papà che ripuliamo, oggi ho ripulito il furgone, ho detto, sei là, ho detto, non c'è benzina, ho detto, ti faccio andare a piedi. Qui ho detto, mi lo faccio. No, una volta un caffè, mi ho preso, non lo so. A lui ne piacciono tante, così, ma per... non lo so, Gianni lo conosce, non lo so manco come è fatto. Mio figlio, altro, pigliatene uno una volta e pescimi che è fuori. Ehi, ma ho detto, stai attento, guarda a vedere come si chiama, capito? Oh, Luca, allora, questo è il Bip, esce, vedi? C'è scritto qua, Roger Bip, cosa? Ah, eccolo qua. Così è, ah, mi senti? Fai, in passaggio, vai. Guarda a vedere. Roger Bip. Sì, la radio che fa, bubu. Roger Bip, contami più tre la sto usando, ce n'è i microfoni qua che vanno bene, anche l'adattatore è pronto, c'è. Ma che radio hai comprato qua? Dimmi. Ah, lo sai, io non lo faccio contento a nessuno, se sto benissimo, va bene, benissimo, ma la radio. Poi se gli altri vogliono confermare, vai, Gianni doppio lupo. Questo è il Galaxy Uranus, capito? Uranus. Ok, l'ho sentito nominare, che no, qui arriva bene, io sono in barra mobile, sono a Ossi, che poi devo andare a... Mamma mia, vai da vedere i fatti che dati. Claudio. Bisogna vedere che microfono... Esce i fatti che dati. E va ancora meglio di quelli che hai, cioè a me mi arriva bene, sono in macchina, poi da casa, poi vedremo, vai. Allora, sai cos'è il problema, io me l'ho acceso, ma non sono stato lì a perdere tempo a stirarmi di medio. Prima me la stiravo di più. Tu magari ti astiri perché ne hai tanti apparecchi, sai come farlo funzionare. Infatti quello mi ha detto saccalo, tanto se non lo vuoi ma dito. E lì niente, dai, non come ti funziona, controlla, ne ha un bel. Io dico di Umberto, come il presidente Nicola, è superiore al presidente Nicola, non conoscevo la verità questa radio, no? Guarda a vedere, ti faccio un passaggio, guarda il segnale, 1, 2, 3, 10, 20, 30. È scritto dal, allora, e di su più, salta a finire tra il 3 e lo 0. La radio com'è, buona? Sopra la radio, qua, bella, bella. Già, confermi? Ma che cos'è quello? Questo, aspetta, stacco il lineare perché prima lo voglio fare scaldare, controllare, bene. Allora, questo è un Galaxy Uranus, non l'ho mai visto nessuno, Uranus. C'è la tastiera digitale davanti, frequenzimetro, tutte cose. Molto, molto bello, eh? Lo sto usando con il Turner più 3. Infatti sono di portante bianca 4, 15 watt là. Galaxy Saturn Echo. Io non so se sono tutta la scurrigi, sto uscendo male, non è Saturn Echo, è Galaxy, adesso mi ricordo, Uranus, no Uranus, come ha detto Gianni, Uranus. Cosa stavo dicendo? Dillo che è anche nuovo un apparecchio. Insomma nuovo, non c'è un graffio nuovo. Bene, sto uscendo Gigi. E allora che è scrivato a scurrici? Non so chi è. Scusate, che adesso lo regolo. Ah, sto scritto bene. Segnale a fondo scala qua. Scusate, sarà in zona, Cucini alto sono. Ah, era di fronte a me, sono qua, Casette Canada. Va bene. Vabbè, scusate. Avanti, aspetta che... No, vabbè, claro, sai che facciamo una prova con il K, aspetta, che è comodo. Vediamo un po' com'è. I, c'è scritto HI. Però no, ma addirittura non riesco neanche a mettere, perché sono a 0,77 io, 27, 0,77.2. Non riesco a mettere 75. Allora, ascoltami bene, allora qua c'è un tasto, ascoltami bene. Un tasto con due lettere verso la tua sinistra, dimmi il nome di quel tasto. La tua sinistra, c'ho dei tastini, io controllo, dimmi il nome, c'ha due lettere mi sa. Per, c'è scritto off, così è on. No, quello è il bip. Scusami, allora la tua là lì in mezzo alla tastiera c'è un tastino, cioè per nascondere una freccia sotto per farti cambiare il numero della frequenza. Tu la schiacciamo e ci sposta, però va bene, altro mi ricordo come si chiama, non è NB, non mi ricordo, cazzo. Ah, non è essere questo tastino, l'ho fatto io prima. Poi se tu leggi bene nel disegno non ci deve essere scansione, solo ti si sposta di frequenza. Quindi non fare le scan. L'ha fatto 27.075, lo shift 27.075.0. No, no, vediamo. Comunque ci benissimo, caro, veramente bene, va la radio, adesso va bene, non riuscivo a fare, c'è un bel di tasti, un bel di tasti c'è. Ma il bip c'è? Se pare col chip. C'è anche il bip. C'è anche il bip? E gente, già chi è il primo microfono che ha provato? La gente l'hanno riprovato. La gente da pure attacco la Doris. Mamma di turchi. Grande affare Luca mi hai fatto fare, complimenti veramente. Sei sempre attento al Dio Sparviero, eh. La gente devo attaccare un mostro. Con il BV131 mi. Allora, così sono 4 watti e così sono tutto a palla. Salito è già. Ma stavo guardando, ecco la verità, fammi vedere. Allora guarda, così c'è il BV131 attaccato e così è staccato, funziona. K che funziona. Perfetto. Anche la te tu. Ehi, va, c'è una bellissima radio qua. Aspetta un attimino che abbasso qua. No, va bene, va bene. Adesso, claro, quello là parì, che siccome era tanti anni fermo, dice l'hanno acceso da poco, comunque tu, per non sbagliare, dai un'occhiata, aprilo qua parecchio, per vedere un po' come è sistemato dentro, se c'è qualcosa che non va. Lo tieni acceso un po', facciamo scaldare bene. Sì, e lo puoi far ripristinare un po'. E se siamo sono vittime, ce l'hai detto, un angusto. Va bene, va bene. Non c'è problema, allora lasciamo stare così. Questo cos'è? Mickey Green. Mickey Green, ed è così. Lo dobbiamo aumentare. Va bene, va bene. Sono contento. E c'è a vedere con lineare. Olla, olla. Vai a vedere. Ehi, a vedere, si attacca, eh. Aspetta, mettiamo l'attenuatore qua, però. Olla, olla. Poi faccio quel re che ci sta entrando in negozio. Oh, Claudio. E certo. Come tu della fantastica. Non ho capito, Vanni, cosa hai detto? Che se vengono qua a ascoltarci, vuol dire che non c'è niente da trattare. Ehi, già ho visto la portante quello fa, ma a me poco mi la fotte, mi capisci? Non mi interessa, Vanni, io lo sanno loro che io vivo qua. Il mio mondo è quello della 27, quando ne ho voglia posso cambiare, quando non ne ho voglia non devo dare spiegazione a nessuno, capito? Dillo a me, per te, dillo a me. Senti, si può fare una capita, ma qui vado là, vado dove tu. Non ci sono problemi, capito? Già va bene. Già ne riprendi, quindi va bene questa radio, lascio così. Bella radio. Guarda, io la somiglio molto a una radio, quella lì, l'Uranus, anche dovrebbe essere uguale a una radio che penso io, quella con tutti i tasti, la 500 569, che adesso non mi ricordo la marca, ma adesso vado a vederla comunque se è uguale a quella. Non lo so, comunque questa praticamente io l'assomiglio invece al presidente Lincoln, l'assomiglio molto al presidente Lincoln, già, capito? Ci assomiglia molto, lui non lo so. Va bene, adesso devo mettere in sesto l'amplificatore. Adesso mettiamo in sesto l'amplificatore e poi la facciamo andare. Comunque già che vado a coltarne più tre, a me mi soddisfa la grande. Buona è la modulazione, Vanni. Vannino di Sorso. Stasera faccio la divisimila, adesso mi metto a lavorare sull'amplificatore. sì. Se vede proprio i bimbioli, come si tolgono? Devo vedere il ducla, boh, non so se è toccato. Riesci a vedere così? Per la della macchina e basta. Ah, quello del microfono c'era, va angulo. E invece, ti piace? Adesso un affare, compro, vendo. Tappa, è bello. Gli affari si fanno quando si fanno. Tu vedi, bene volta ne più due. A trotta, ma va bene. E cosa? Vero? Sì, c'è un problema. Ehi, va bene, male fai. Pensa a me. 231 è una bella cosa, mi chiama, come non prende spazio. E guarda, ti giuro che lo sai, io parlo sinceramente, soprattutto quando si parla di radio, non sono abituato a dire balle, ma io non ho mai visto un 231 tanto nuovo come questo, un vecchio modello, eh? Il vecchio Manno, chi sa cagata che è arrivato da lui. Il primo BV131 vero è la ZG. Ma tu devi vedere i vatti che dà. È così che vuoi. Immaginate che un BV131 normale dà 80 watt, 100 watt. Non so, infatti dà la stessa cosa di quello che c'ho. È inutile comprare un normale. No, questo l'ha modificato un amico di Luigi Vulcano, capito, Massimiliano. Non so che, ma ha fatto un lavoro veramente. Non vedi niente, nulla, non si vede niente. Me ne sono accorto alla valvola, io che non è la sua, boh, capito. Chi era quello che abitava ai Cappuccini Alto, chi è? Cappuccini Alto? Lui si ha detto Cappuccini Alto, boh. Quindi era un bel... c'era anche Sambuca che abitava lì, ai Cappuccini. Sambuca? Chi è questo Sambuca? Sì, un po' di anni fa. Ah, io già ho capito chi era, già ho capito. Non sai chi è? Ehi, già ho capito che ci faceva chiamare c'è un buca io. Tu ne ti logga? Ehi, me l'hai ricordato tu l'altro giorno, però già ho capito che era lui. Me l'aveva già detto una volta mi ha detto, ma sai come mi chiamavo? C'è un buca, hai trovato, non ti si addice quel nominativo, che tu c'è un buca, non lì. Ehi, già lo bevevo prima, sì. Facevano un buon vino a campagna su alto di San Bucaio. Glielo so. Hola. Ma io mi sto ascoltando e mi sa che questa modulazione ci assomiglia molto a quella dell'MC60 già, no? Va bene, dai. E adesso lo teniamo un pochino in funzione. Ma lo sai che non tagli FM il radio, non ne hai idea tu, un bel di anni. Cazzo quanto è nuova, c'ha la staffa lucida, nuova, era dentro la scatola di polistirolo. Magari la tenere, va bene. E adesso basta farla scaldare un po', lasciare un po' accesa, cos'è che si riprende bene. E glielo lasciamo stare acceso, infatti, adesso per un po' di tempo modulo con questa, adesso lo mettiamo, adesso è tutto incasinato, tutto appoggiato così, ma adesso sposto la KV23 e metto questo qua sopra l'LMS 200 e via, leggiamo questo, tanto il posto già c'è. Adesso devo sistemare il coso, però l'amplificatore, adesso vediamo, lo metto in funzione, prima lo pulisco, sposto, devo spostare un'altra radio e sciogliere. Va bene. Ok. Cava. Intanto come la voce, mi sembra che mi... Scusa. Ma, sempre con me dei guai, qua. Come ti stavo dicendo, che sembra tanto che sei sempre colpito. Sì, quando poi uso il linearetto, che aumenta un pochino la potenza, molto aumentava. Quanto aumentava? Quanto è così con 10 watt? Prova. Guarda, vedere, 10 watt. 9,15. E così invece? c'è quanto è? 9.25. Sì, allora va bene. Stai usando solo la radio adesso. Questa è solo la radio e questa qua è il BV131, capito? E non satura me. Allora col BV. Allora così è solo la radio, guarda, così è solo la radio e così è il BV131, guarda, no? Con 10 watt d'ingresso, ma intendi la radio? Ma poco, ecco. Poco? E questi sono 10 watt, sono 130-140 watt. Ma vicino a casa si vede di più in lontananza queste cose qua. Ma infatti, comunque già funge, non c'è problema. Quello smitter di questo apparecchio è un po' avvaro, dico la verità. Magari è molto di più. È un po' avvaro. Invece se non vuoi 20 ti danno 15, capisci? Non è molto generoso come apparato. K. Comunque vabbè. Okay. Adesso ho fatto l'altro affare. L'altro, quello grosso si può sapere quanto è. Quello grosso l'amplificatore è un kilowatt. Cazzarola. Kilowatt. Ah già, allora Lu, cos'hai detto? Cosa? Ho detto cos'hai detto? Mi senti? Sia 2 kilowatt c'è scritto, guarda, leggi bene. Esu Maria Gara, 2 kilowatt. Oh, già mi rivedo poco. Sono valvole dentro, c'ha 4 bruscioni, non valvole. Bobo. Esu Lu, non avevo visto la marca. Non avevo, aspetta, spiego di neare il luce 31, c'è un meno grimba. Non avevo visto la marca. Questo è salvi chi può. Me lo ricordavo, braccio, ci avevamo una cosa del genere, era 9.20, 9.30, arrivavo a Porto Torres quando ero la mamma. Ti sento già. Guarda, allora, 2 kilowatt sì, perché c'ha il doppio, poi c'ha il perfetto l'antenna, le fegine, 2 kilowatt bella, la gente è molto efficiente, comunque la marca che conosco. Allora c'è scritto un K2K, significa un kilowatt, 2 kilowatt, dall'1 a 2 kilowatt. Claudio che vado a vederlo. Globetrotter, una cosa leggi, Globetrotter. Ma come si quei camion che hanno quel nome in alto, cioè Globetrotter? Vabbè, con 2B. Una B. Però io la sigla già, questo è un Globe, scrive così, Globe Trotter, tutto attaccato, RMS K707, Made in Italy, ecco. Ah, qua, ho scritto amplificatore, Globe Trotter, modello K707. K707? Positivo. Eccolo qua. Formula rilevatoriale, come trotte, amplificatore, eccolo qua. Vediamo un po'. Aspetta, così vediamo un po'. Un ecco della delta G, beh. Delta G, dico un ecco, cos'è? Modello? Cos'è sta qua? Dico un ecco e me. Ah, grosso, guarda, studiate lo clap, diciamo le funzioni. Leggimi l'ingresso che c'è a quel lineare. Aspetta, non lo trovo, aspetta. Mi hai dato in più una cosa. Cosa? Una molletta. Cazzo, è una molletta detta gaccetta. Poverino, anche i cavi con i piedi attaccati c'erano, cazzo. C'è tutto, e ce n'è altra, lo posso andare a cercare. Dettami il nome, beh. Allora, Globetrotter K707, dovrebbe essere RMS, non ci devo fare. Boh, qui c'è scritto, vabbè. Allora abbiamo detto, potenza totale 600 watt in AM e 1200 watt in banda. L'apparecchio si trova a provincia di Pavia, lo vendo 250 euro. Solo quello lì, 250 euro. Perciò l'hai fatto l'affare, qua. Ehi, ma voi l'ho fatto l'affare. Credo che c'è anche il baracchino. Alla grande. Mi hai fatto fare un grande affare, non piccolo, grande. Guarda, non c'è un problema, non è chiaro. Se tu già detto, io non parlo a Walter, hai capito? Non c'è problema, no. No, vabbè, ma il discorso dei watt è normale. Capito? Quando tu vai a comprare un kilowatt, un legnare da un questo è una applicata da un kilowatt, non da due, c'è lo strumento da due kilowatt. No? Però è un kilowatt. Però in AM non te lo dà mai un kilowatt, capito? Te ne dà sempre 600, 650. Stai attento che io lo devo fare andare con la LAN 48. La LAN 48 c'è un picchio di modulazione non molto elevato. C'è un 1131, 50 euro, lineare, Sant'Euro. No, non ce n'è là. Ma penso come gli altri, prova da lì. Quanti fate dare per il 48, scusa? Il 48 c'ha 40 watt. C'ha 40 watt di picco. Se lo metto a 2 watt e mezzo di portante sale a 20-25. Di portante bianca c'ha 40 watt, 38 watt c'ha. Ho capito, ascolta, boh, provavo 11 watt qua. Vabbè, se lo devo usare con questo non ci sono problemi. Questo c'ha 10 watt. 10 watt c'ha, 15 watt c'ha, però l'importante bianca c'ha 8 watt, 8 e quando parlo sale a 12-13, capito? Quindi non c'è problema. No, prova, Clau. Tu organizzati, organizza il tutto, fa la scaldare bene e poi proviamo. Ehi, dai, adesso mi metto a fare qua. Già, sono in QRX. Ci sentiamo dopo quando rientri, ok? Avviene, sa dopo, Clau. Gianni, sì. Ehi, regala, mi sono tutti ti vado a prepararmi, se no mia moglie mi spara, che me l'ha già detto due volte. Stiamo andando, ci sentiamo dopo. A stasera. E ok, a dopo, ciao ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Chi è? Buon animale Silvestre. Prima per te c'è una voce bassa, ciao Giampa. Cosa dire, comunque la grande dicendo il segnale è sempre uguale, da lì te ne accorgi perché tu hai migliorato, invece io non lo so lì da te, capito? Sì, tu sì, invece non lo sapevi più a me. E anche tu allora, vai. Ascolta, che antenna è quella? Messo, però arrivo con le fascette, dove ci siamo fatte diversamente. Prima mi arrivavi 9, adesso sei 9 più 5, capito? Quindi suppongo che puoi arrivare anche 9 più 10. Ottimo, il tuo segnale è come vecchi tempi quando eri in viale delle linee. Via, ok, allora, ma anche se non ho più faccio mentre sei, perché per arrivare e chiacchierare però non diciamo... Stavi soffrendo, lì la verità, eh? Sentiamo dopo, io intanto sono tutta la sera qua in radio.